Resto, vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Allora, buonasera a tutte e a tutti, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa va in onda come ogni martedì a quest'ora, con qualche minuto di ritardo, l'ora di buco, lavoratori e lavoratrici della scuola parlano di scuola. E siamo qui qualche giorno dopo la mobilitazione del 24 novembre scorso, di sabato, lo sciopero della scuola che ha visto però in piazza ancora una volta molti studenti e anche un discreto numero di docenti, nonostante, va detto, lo sciopero fosse stato inopinatamente indetto di sabato, quindi con esclusione di tantissime scuole che di sabato proprio non funzionano, e anche di tante docenti che comunque il sabato non lavorano, perché per esempio in molti licei il sabato funzionano solo alcune classi ed altre no. Quindi le percentuali ovviamente vanno calcolate, il numero dei scioperanti va calcolato sul personale che effettivamente era tenuto al servizio. E a questo proposito però va anche ricordato ovviamente che questo sciopero, che era stato indetto da CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda e poi COBAS, ha avuto alla fine soltanto l'indizione da parte di COBAS e CGIL per il ritiro degli altri sindacati in base alla loro interpretazione che le assicurazioni del ministro Profumo in merito per esempio agli scatti di anzianità li avevano abbastanza rassicurati, e che quindi secondo le dichiarazioni per esempio non ricordo proprio se di Bonanni, ormai lanciato comunque verso l'iperuranio della politica, aveva reso appunto inutile questo sciopero, ma più che inutile lui considerava appunto questo risultato una vittoria. Però vorremmo andare intanto a brevemente analizzare qual è secondo diciamo quello che ha dichiarato Profumo, e diciamo comunque che anche questo sabato, come già il mercoledì 14, la partecipazione degli studenti era stata molto grande, sicuramente un po' inferiore a quella del 14, ma anche qui il sabato avrà sicuramente pesato, perché se le scuole sono chiuse, se ci sono meno studenti, cioè è difficile poi andare davanti a scuola e portarsi dietro la gente al corteo. Comunque anche questa volta il corteo degli studenti con molte e molti docenti è partito da Piramide, mentre la CGIL dopo il ritiro degli altri sindacati ha ripiegato su Piazza Farnese. E comunque, insomma, è stata anche una manifestazione che si è snodata lungamente, prima nel quartiere d'Estaccio, poi nelle vie del centro, fino a lambire i cosiddetti palazzi del potere, anche se su questo, insomma, poi lambire o meno i palazzi del potere di sabato mattina. Pure lì non sappiamo poi esattamente quale significato abbia, se non quello comunque che gli studenti avevano intenzione di prendersi la città e questa volta insomma ci sono riusciti senza danni. E va fatto anche dei complimenti a studenti e studentesse che sono scesi in piazza con una grandissima ironia, una grandissima creatività. Avrete visto tutte e tutti, insomma, nelle scarne immagini televisive dei giornalisti molto dispiaciuti perché non c'era stata la mattanza della settimana precedente, che insomma sono scesi con la pasta in testa e altri ammenicoli di plastica, tanto per rimarcare la questione della minacciata denuncia da parte della ministra Cancellieri per chi fosse andato in piazza con il casco. E soprattutto vorremmo dare il nostro tributo alla persona, non sappiamo chi sia, che ha ideato secondo noi il cartello più bello di tutta la manifestazione, Semo venuti già menati. È vero che l'ironia e la creatività degli studenti sono state, come al solito, direi, grandi, notevoli, e io rimango sempre colpita in realtà dalla qualità, ogni volta di più direi degli slogan degli studenti che questa volta, come le volte precedenti, hanno diciamo allargato i loro slogan e le loro rivendicazioni non solamente a quello che è l'orizzonte di quello che la scuola rappresenta per loro, dei tagli continui, ma soprattutto a quello che è l'orizzonte del loro futuro e ai tagli che diciamo, la qualità dell'istruzione impone evidentemente alle loro prospettive per il futuro, unitamente evidentemente alla congiuntura attuale. E quindi erano tantissimi proprio gli slogan sulle prospettive del futuro di questa generazione. A questo riguardo mi piaceva fare una considerazione anche sull'atteggiamento degli insegnanti. Non vorrei sembrare troppo critica. È vero che gli insegnanti, i docenti e le docenti erano molti e molte. È vero però che non erano moltissimi. Dopo quello che era accaduto, la manifestazione precedente, il 14, dopo quello a cui erano stati sottoposti, gli studenti, le cariche della polizia, io credo che, molti insegnanti, al di là di discutere e ragionare su quello che è il concetto di legalità e illegalità, su quello che è il concetto di manifestazione autorizzata o non autorizzata, perché molte delle riflessioni con cui io sono venuta in contatto, sia a scuola ma sia anche in mailing list, invece di riflettere o di discutere su una manifestazione unitaria o non unitaria, avrebbero dovuto sentire, credo, come primo dovere quello di schierarsi a fianco degli studenti e di manifestare scusate, come prima cosa la loro solidarietà agli studenti. Quindi è vero che c'erano insegnanti, ce n'erano tanti, ma io ho visto tanti insegnanti giovani e cioè tanti insegnanti precari che evidentemente portavano avanti anche legittimamente le proprie rivendicazioni e che diciamo erano vicini agli studenti. Non ho visto tutti questi colleghi diciamo strutturati, tutti questi colleghi di ruolo, non tanti quanti avrei voluto vederne in qualche misura. Sì, la cosa più bella per me è stata in realtà questo snodarsi, no, del corteo lungo, per esempio, le strade di Testaccio, ha girato intorno al mercato e dalle finestre ci sono stati soprattutto anziani, donne e uomini con la trombetta, chi con la bandiera della pace, chi con anche bottigliette d'acqua, ricordandomi Genova, altri cortei. E quindi, ragazzi, applaudivano, sì, quindi diciamo hanno giocato in casa. In realtà forse Roma è stata ca la, la casa di questa manifestazione, quindi bravi le ragazze e i ragazzi che sono riusciti a portare i colori, il sorriso, ma anche i contenuti. Quindi quello che avevamo detto nella scorsa trasmissione, no? Del fatto che gli studenti stavano rendendosi sempre via via più consapevoli del loro essere studenti. di quello che succede nella scuola, come dire, si è concretizzato. Volevo aggiungere, riprendendo il discorso che faceva Francesca, che appunto in piazza di docenti c'erano soprattutto i docenti precari, e c'erano docenti che sono venuti da Firenze, da Napoli, perché alla domanda "ma come mai siete qui?" perché qui sono i palazzi del potere, insomma, anche loro ribadivano, quindi ce n'erano, e anche molto creativi, devo dire, no? Specie lo spezzone fiorentino, che invece aveva fatto proprio un elenco di slogan cantati, quindi c'erano in piazza i docenti, i precari soprattutto. Sì, infatti, e alcune delle foto della manifestazione le potete vedere sul nostro blog, ora di buco.noblog.org. Sì. C'è stata anche la manifestazione dei Cobas, che invece è andata fino a lambire uno dei palazzi del potere. Avevamo chiuso, ricordo ancora, la nostra trasmissione con i dubbi del fatto della bontà, diciamo, dell'onestà intellettuale dello sciopero dei quattro sindacati, che poi si sono nottetempo ritirati perché dichiarano di aver sospeso lo sciopero perché avevano vinto e avevano raggiunto gli obiettivi che si erano posti, e magari forse è il caso di esaminare, andare un attimo un pochino in profondità per vedere quale successo noi insegnanti, noi lavoratori abbiamo ottenuto già in questa battaglia. E una parola prima di questo, proprio sulla piattaforma delle rivendicazioni del 24, per come era stata dichiarata dai quattro sindacati, due confederali, SNALS e Gilda. Io sono stata alla assemblea regionale il 13, che diciamo voleva discutere, illustrare questa piattaforma, e voglio dire, quello che mi preme sottolineare, se mai ce ne fosse bisogno, è proprio la singolare sordità di queste persone dalle rivendicazioni, rispetto alle rivendicazioni di quella che possiamo definire la loro base. L'assemblea non è stata un'assemblea tranquilla per in nessun modo, sia per dei deficit organizzativi, ma sia anche perché le persone che erano riuscite ad entrare, ed erano circa la metà dei partecipanti, circa 500 persone, sono rimaste fuori dall'aula magna del Policlinico e continuavano a urlare e a richiedere di affrontare tematiche quali la legge Aprea e quali soprattutto il concorso, concorsino, concorsone. E rispetto a questo la risposta affannata e sinceramente deficitaria è stata solo "affrontiamo un tema per volta". Quindi questa mobilitazione si è in qualche modo articolata su questo tipo di base e su questo tipo di consenso già interno rispetto a quella piattaforma. Scusa. No, no, infatti poi ci siamo ritrovati un giorno prima della manifestazione con insegnanti che volevano venire da tutta Italia, con pullman annullati, viaggi cancellati e una mail, no, di forse anche scuse per dire "no, abbiamo scherzato, abbiamo ottenuto tutto e quindi adesso siamo stati, come dire, investiti da queste dichiarazioni della UIL, della CISL soprattutto, che ci vogliono convincere con alcuni dati e che niente, le cose non potranno che migliorare". Posso dire addirittura che c'è, virgolettato, "siamo certi che a breve un governo finalmente amico saprà renderci con gli interessi quanto i suoi biechi predecessori ci hanno prima tolto e poi non restituito". Sembra Guerre Stellari, proprio una cosa del genere. Comunque, per farla semplice, perché noi prima della trasmissione ci siamo messi là, qui su, insomma, sulle dichiarazioni, sulle cose, ma andiamo al succo. Allora, il succo è, per le dichiarazioni dello stesso ministro Profumo, in passato si era detto che erano bloccati gli scatti di anzianità, ma che si sarebbe potuto ripristinarli con i risparmi. Allora, i risparmi che sono stati fatti sono pari a 86 milioni di euro, che derivano comunque sempre da noi, cioè dai tagli degli organici e dai tagli ai fondi d'istituto. I soldi comunque sono anni nel fondo d'istituto che diminuiscono, e mi ricordo la mia ex direttora che soleva dire, quando ci lamentavamo, "la coperta è corta", e vabbè, ma te la tiri sempre dalla parte tua, io volevo dire io, e io l'ho anche detto. Comunque, quindi ogni anno diminuiscono, perché cala, ovviamente vengono calcolati sull'organico, quindi cala la quota pro capite dei dipendenti delle singole scuole. e quindi occorrevano per il ministro Profumo altri 390 milioni di euro. Queste cifre comunque andranno prese dal fondo d'istituto per coprire soltanto gli scatti di chi li ha maturati nel 2011. Poi non so se gli danno gli arretrati, perché pure questo è un altro argomento, perché qui adesso ormai il discorso degli arretrati per esempio sui contratti è sparito da tempo. Prima ci davano l'una tantum, prima ci davano gli arretrati calcolati giustamente dal momento in cui era scaduto il contratto, poi si è passato una tantum, poi io siccome sono passati 5-4 anni dall'ultimo, 3 anni, quello che è, dall'ultimo contratto, io non mi ricordo nemmeno se me l'hanno dati, ma se non me lo ricordo non deve essere stata questa cifra iperbolica. E quindi si viene a creare una situazione paradossale per cui vengono tolti a tutti dei soldi che andranno a coprire solo gli scatti di una parte dei lavoratori e lavoratrici. Non è che noi vogliamo fare un discorso che noi vogliamo dare i soldi e ce li teniamo stretti, anzi credo che qui siamo tutte e tutti d'accordo che per noi il fondo d'istituto andrebbe abolito e andrebbe dato un, come fu chiesto da qualche voce nel deserto all'epoca quando fu istituita questo salario accessorio, e dovrebbe essere ripartito su aumenti consistenti. Ma insomma questo intanto è, e vorremmo nella loro logica far rilevare sostanzialmente questo. Quindi in sostanza non vengono ripristinati gli scatti, vengono ripristinati solo quelli del 2011, e quindi poi c'è comunque tutta una parte di personale con la storia della legge sulle pensioni della ministra Fornero, che ormai ha raggiunto il massimo, quindi non ha comunque più diritto a scatti bloccati o sbloccati, e è fortemente penalizzata perché deve rimanere in servizio da 5 a 7 anni e con regime contributivo, quindi andando a guadagnare non a guadagnare di meno, cioè ad avere meno montante pensionistico, come si dice, quindi andrà a prendere i meno soldi di pensione di quanti probabilmente avrebbe preso se fosse rimasta nei tempi della precedente riforma pensionistica e con regime retributivo che ancora è in vigore per questi lavoratori e lavoratrici che hanno ormai raggiunto quasi sono praticamente ormai quelli che stanno al massimo, per massimo noi si intende 35 anni, che sono quelli dell'ultimo gradone. La cosa più grave, e mi fermo poi così commentiamo un po' tutti insieme, è che però il discorso è stato legato chiaramente dal ministro Grilli, che è il ministro dell'economia eccetera, e sì, che mi pare non vorrei... della funzione, della funzione, no, sicuro, no, tesoro. Dell'economia, che è succeduto all'interim di sì. Mario Monti, che ha detto sì, però questo bisogna legarlo alla produttività. Cosa la produttività significhi nell'ambito scolastico, passo la parola. E passi la parola sulla produttività. Io volevo aprire una brevissima parentesi per sottolineare come non è che si tratti, voglio dire, questi sindacati sono quello che sono, però si tratta un attimo di riflettere sull'atteggiamento di un sindacato che firma un accordo per cui il ripristino degli scatti di anzianità per una categoria per un anno con i limiti che tu ci hai illustrato passa attraverso il recupero di tagli che sono tagli agli organici e che conseguentemente significano il licenziamento di tanti lavoratori precari, e questo mi sembra già veramente una cosa piuttosto chiara, che indichi l'atteggiamento di queste persone, e che evidentemente in questo caso le cifre sono irrisorie e i limiti sono quelli che hai detto, però che crea spaccatura comunque tra i lavoratori nel mondo del lavoro. Quanto poi al concetto di produttività, sinceramente la prima considerazione che è venuta in mente, che è venuta in mente a tutti, è che nel mondo della scuola produttività può significare esclusivamente, sia per il personale docente sia anche per il personale ATA, comunque può significare solo aumento dell'orario di lavoro, e che quindi le 6 ore, 2 ore, forse ne parleremo, faremo un accenno alle 2 ore, 4 ore o tutto quello che c'è in mezzo di più o di meno, che sono uscite dalla porta evidentemente in un'atmosfera di campagna elettorale sociale e sono pronte a rientrare dalla finestra, ma in immediata successione di tempo, mi pare di capire, e questo è quello che io intendo per produttività nella scuola, perché per il resto mi pare che non ci sia nessuna prospettiva, né nessuna prospettiva culturale e né alcun altro modo di esplicare questa produttività, tanto più che nonostante con buona pace delle dichiarazioni della CISL, mi pare che il taglio al FIS, che va a sommarsi al taglio al FIS della legge di stabilità, certo, di cui abbiamo già dato conto precedentemente, milioni. 47 milioni, non potrà che portare a una diminuzione della qualità, vogliamo chiamarli così, dei servizi, o comunque a una diminuzione di quanto viene offerto agli studenti in termini, per esempio, è la prima cosa che mi viene da pensare, di corsi di recupero o di interventi che possono essere funzionali forse a quella che dovrebbe essere la funzione primaria della scuola, quindi la compensazione di quello che è un disavanzo sociale in qualche modo. Sì, e l'altra cosa certa ad oggi è che il fondo d'istituto è vuoto di tutte le scuole, oggi ad oggi è vuoto, quindi chiunque stia lavorando portando avanti dei progetti nelle scuole che non sono occupate, i progetti, funzioni strumentali, attività varie, lo sta facendo gratis, senza la certezza di nulla, perché non so dopo quanti anni, diciamo fine novembre, inizio dicembre, siamo ancora con 0 euro dentro le casse della scuola per l'anno che già è iniziato da 3 mesi. Dunque, diciamo, riflettiamo su questo. Non so se i colleghi di questo si sono resi conto, non credo, soprattutto quei colleghi che si sono affrettati a sbloccare il POF per poter tornare protagonisti dei propri progetti, soprattutto. Sì, e poi va detto anche che comunque non se ne sono accorti probabilmente, perché molte scuole la contrattazione si trascina proprio in maniera veramente mortifera. Nella mia scuola, per esempio, si firma a maggio, per cui vi rendete, poi devi fare una corsa, perché adesso c'è la questione del cedolino unico, quindi viene pagato tutto dal tesoro, non più dalle scuole, e quindi tu in effetti lavori comunque fino a maggio senza la certezza che poi in qualche modo la contrattazione ratifichi quello che tu hai fatto. Adesso mandiamo un pochino di musica. Con l'università con l'ora di buco lavoratori e lavoratrici della scuola parlano di scuola e stavamo parlando appunto... Sì, scusami, volevo, se no ci dimentichiamo, dire insomma il blog l'abbiamo già detto, e il telefono della radio lo conoscete, lo ripetiamo, 06 49 17 50, ci potete comunque scrivere a ora di buco chiocciola ondarossa.info. E stavamo parlando dell'accordo firmato dal governo con CISL, UIL, SNALS Scuola e Gilda Scuola, che prevede appunto il ripristino degli scatti di anzianità per il 2011 e evidentemente per compenso il taglio del FIS e un non meglio chiarito, diciamo, incentivo di produttività da parte dei lavoratori della scuola. E riflettevo, mi veniva in mente il fatto che a questo proposito siamo in un paese dove le cose funzionano in una maniera un po' strana, in questo modo, cioè tu avevi un diritto prima, che erano gli scatti di anzianità, improvvisamente vieni privato di questo diritto, ti dicono per un moto di generosità che sei costretto a prestare, dopodiché per venire reintegrato in questo diritto devi pagare, e devi pagare duramente, perché devi pagare in questo caso con il taglio del FIS, devi pagare con un aumento di produttività. È lo stesso discorso degli esodati in qualche modo e di tante altre categorie che stanno soffrendo in questo periodo. Sì, ricordiamo, perché ogni tanto ci dimentichiamo, e auspichiamo che non siano solo lavoratrici e lavoratori della scuola che ci ascoltano, ma non è detto che nemmeno loro capiscano tanto certe sigle. Il FIS è il fondo d'istituto, cioè l'abbiamo anche detto prima, che è il salario accessorio, ma giova ripeterlo. O poi a margine c'è ovviamente tutto il discorso dei soldi alle scuole private, di questa storia dell'IMU, ma noi contiamo dell'esenzione dell'IMU anche alle scuole, cosa che sinceramente a me era sfuggita. Io credevo che si trattasse solo degli alberghi con la cappella. Ve la ricordate la storia dell'albergo, che se c'ha una cappella nel senso di luogo di preghiera può essere considerato luogo di culto? Però alla fine pensiamo di parlarne in una trasmissione successiva, dove affronteremo poi tutto il discorso scusate, io mi sto distraendo, qui sono un po' indisciplinati. Allora, dicevo che ne parleremo insieme a tutto il problema degli insegnanti di religione e dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. E ne parleremo anche insieme ai 223 o 233 milioni che comunque la legge di stabilità ha devoluto per la scuola privata, perché si tratta di fare un quadro anche abbastanza, diciamo, completo di quello che è l'atteggiamento di questo governo nei confronti dei privilegi della scuola paritaria. E però forse per quanto riguarda l'attualità è il caso di introdurre un nuovo argomento. C'è qualcuno? È il caso di introdurre un nuovo argomento? Anch'io mi sto distraendo. Va bene, allora adesso vorremmo passare a una questione che non avremmo voluto trattare perché per vari motivi, ma che comunque insomma fa parlare tantissimo, per cui diamo la parola a un ospite. Per esempio in alcune sfere del personale della scuola, grande spirito conservatore, grande indisponibilità a fare per esempio 2 ore in più settimanali, il che avrebbe permesso di liberare risorse per fare più seriamente politiche didattiche. Non cadiamo quindi nel mito bontà e durezza. No, i corporativismi spesso usano anche i giovani per perpetuarsi, per non adeguarsi ad un mondo più moderno. Allora, abbiamo ascoltato questi 44 secondi fantastici domenica, televisione da Fazio, e la domanda, non si è sentita, la domanda era come mai era molto violenta in effetti, se il Presidente poteva spiegare agli italiani il motivo dei tagli alla scuola, e ha risposto in 44 secondi in questo modo che a molti è sembrato volgare, perché menzognero. Innanzitutto è riuscito a, appunto, a non rispondere alla domanda per quale motivo la scuola deve essere tagliata. Secondo menzogna, diciamo, falsità, è parla di 2 ore di lavoro in più che i docenti, questi docenti, non vogliono fare. E i termini non sono esattamente questi, e chi ha ascoltato questa trasmissione o si è affacciato dalla finestra sa perfettamente che non sono questi i termini. Quindi, diciamo, è stata una menzogna, una falsità bella e buona. Altra falsità è che i risparmi di queste che venivano fuori dal lavoro in più dei docenti di 2 ore settimanali sarebbero stati messi, no, a disposizione per il miglioramento della didattica, cosa falsa, perché non è vero, sarebbero serviti come soltanto a tagliare il personale. Poi altra falsità, questa, no, presunta manipolazione degli studenti, che sono ragazze e ragazzi facilmente, cioè, labili, che ascoltano qualche matto che dalla cattedra dal pulpito riesce a convincerli di cose inventate. Quello che notavamo è che anche Monti è riuscito a ribaltare il significato delle parole, e quindi si è riferito a persone che difendono i propri diritti di lavoratori, oltre che della Costituzione, e come gente corporativa affetta da questa malattia che è conservatorismo, in questo salto logico proprio spettacolare e degno degli ultimi anni. Quindi io, come dire, volevo semplicemente riflettere sul fatto che se la protesta stava un pochino scemando, perché qualcuno sta convincendo i docenti che tutto sommato le cose sono andate bene, sono state vinte battaglie, le 24 ore frontali non ci sono più, di fatto l'idea rozza, volgare che Monti ha espresso e che ha suscitato molte polemiche, in realtà è il vero pensiero di queste persone. Il pensiero è che debbano, cioè che anche il futuro ci aspetta comunque un attacco sotto forma di 2 ore, sotto forma di privatizzazione, sotto forma di tagli, che diciamo che noi dobbiamo fronteggiare stando sempre sempre attenti, alzando sempre l'attenzione. Io volevo spendere 2 parole proprio sulla rozzezza dell'atteggiamento di Monti. Come ovvio, se ne è parlato, diciamo, tra tante persone, e mi veniva fatto notare che l'atteggiamento di Monti non è molto dissimile, non so se vi ricordate, dall'atteggiamento di Brunetta quando fu chiamato al confronto con i precari della pubblica amministrazione, e quando disse, appunto, andandosene siete la parte peggiore dell'Italia. Evidentemente l'atteggiamento di Monti è molto più sobrio come in carattere col personaggio, però sinceramente soprattutto in quell'accusa di usare gli studenti per portare avanti degli interessi corporativi, sinceramente c'è molto quell'atteggiamento, neanche di arroganza, ma proprio di disprezzo. Volevo aggiungere una cosa che mi ha colpito e mi ha addolorato per le prospettive del mio futuro e di quello del futuro dei lavoratori italiani, però, è che a pensare questo Monti non è da solo, mentre invece ci piacerebbe che fosse da solo, perché in immediata successione di tempo, scusate, cioè lunedì stesso, Napolitano, ricevendo al Quirinale i Cavalieri del Lavoro, ci si domandava chi fossero oggi i Cavalieri del Lavoro, ma questo assolutamente a margine, ha ripreso le dichiarazioni di Monti con riferimento proprio alla trasmissione Che Tempo Che Fa, dichiarandosi assolutamente in linea, dicendo di aver trovato ineccepibili quelle dichiarazioni e riprendendo quasi testualmente le dichiarazioni stesse di Monti, e cioè dicendo che attuando una sollecitazione nei confronti del governo per metterlo in guardia dai pericoli di passi indietro sul cammino delle riforme, e in particolar modo di quelle che ha definito essere delle derive populiste di fine legislatura, tese a salvaguardare proprio i conservatorismi e i corporativismi. E quindi, diciamo, possiamo capire su quali allori, in qualche modo, proprio nella prospettiva di un governo che ci riporterà in auge, che riporterà in auge il senso della scuola, su quali allori effettivamente riposiamo, se questa è l'opinione generale diffusa. Una parola ancora sul concetto di conservatorismo e modernità, perché è veramente assurdo pensare che una visione della scuola che ha alla base solo ed esclusivamente tagli, nessun tipo di visione culturale, nessun tipo di prospettiva e proposta culturale, ed è così oramai da decenni, dalla riforma Berlinguer, di cui personalmente non condividevo i contenuti, ma che riposava su un impianto culturale comunque, l'unica politica della scuola che è stata attuata è una politica di tagli, e dobbiamo intendere che evidentemente l'essere moderni è essere solidali e generosi nei confronti di una politica di tagli. Questo è il messaggio che ci viene non solo dal Presidente del Consiglio, da diciamo il Presidente del Consiglio Tecnico, ma dallo stesso Presidente della Repubblica. Pronto, ci sei? Ci sono. Allora vai. Mi sentite? Sì, adesso sì. Allora, buonasera, sono Saverio. Vi stavo ascoltando attentamente e volevo dire velocemente due cose. La prima è che io sono un educatore che lavora in un centro per disabili e noi lavoreremo da gennaio 2 ore in più, grazie all'accordo firmato da CISL e UIL. Nei prossimi giorni forse ci sarà uno sciopero in merito, vedremo come va a finire, ma ci siamo già incontrati anche con la direzione per... E dicevo, dal 1 gennaio lavoreremo 2 ore in più, e nonostante siano a nostro parere praticamente inutili, perché i turni sono già completi e queste 2 ore in più servono soltanto eventualmente ad assumere in futuro meno persone, perché lavoreremo in meno e più ore. Però io volevo comunque parlare di scuola, questo è un altro ambito, e credo sia giusto poi che i lavoratori e le lavoratrici condividano i problemi che hanno, al di là se sono nella scuola appunto, in un altro ambito, sempre lavoratori e lavoratrici sono. Ma io invece volevo parlare proprio di scuola e volevo sapere cosa ne pensavate di un episodio che è successo qualche giorno fa. Un ennesimo episodio, ce ne sono stati già altri in passato, di un alunno che si è suicidato per comportamenti bullistici e omofobi da parte della scuola, da parte sia degli alunni che degli insegnanti, e quindi credo sia un fatto molto, molto grave sul quale è necessario essere chiari e senza cercare dei capri espiatori o dei colpevoli a tutti i costi, però credo sia giusto fare una riflessione. Non basta dire che probabilmente era un ragazzo fragile, come ha detto qualcuno ieri in televisione dedicandogli una canzone di De André. Sì, Saverio, noi abbiamo parlato di questo prima della trasmissione, quindi ci siamo confrontati e sicuramente dedicheremo una o più trasmissioni, non tanto sull'argomento della tragedia, ovviamente, ma su quello che c'è dietro, ovvero cosa succede nelle scuole. Noi abbiamo parlato di progetti che si fanno, ma poi andiamo a vedere se realmente dentro le scuole vengono affrontati le questioni di identità di genere, orientamento sessuale, bullismo, omofobia, eccetera. Quindi vi ascolterò nelle prossime. Sì, no, volevo dire questo, che nel corteo di sabato c'erano ragazzi e ragazze che erano vestite di rosa, quindi diciamo, i ragazzi sentono proprio richiamando questa tragedia, e quindi diciamo, l'abbiamo vissuto anche sabato, questa reazione degli studenti. Io credo che invece di parlare di cosa era questo ragazzo, perché ne sappiamo poco e forse non è neanche troppo, come dire, è decisiva per quello che dobbiamo dire, né come era la famiglia, né come era la scuola, se un insegnante ha detto una frase di topo sono stati gli alunni. In realtà il problema di fondo è l'educazione nelle scuole. Nelle scuole in Italia non c'è alcuna educazione su questi temi, dunque gli insegnanti non sanno come affrontare episodi di bullismo, dunque gli studenti non hanno la minima percezione di quello che dicono, di quello che fanno, mettiamoci anche Facebook, che è un mezzo che non sanno minimamente gestire, e quindi tutti quei progetti che ci sono ma gli episodi di bullismo esistevano anche quando non c'era Facebook? Sì, no, non sto dicendo che Facebook, sto dicendo che non c'è tutti questi progetti sono stati, sono pochissimi, sono portati avanti da associazioni tipo la GEDO o anche altre che tentano di formare i docenti e informare i ragazzi e anche le famiglie a volte, però anche qui i tagli della scuola vanno anche a picchiare, a segare progetti così importanti. E quindi la stessa scuola, il Cavour, dove è successa, che frequentava questo ragazzo, come tutte le e anche altre, hanno, per esempio, non hanno più riproposto per quest'anno lo stesso un progetto su questo argomento che avevano fatto l'anno precedente. Quindi io lo vedo come un problema sociale che nella scuola è dirompente, perché i ragazzi lì passano molto tempo, e quindi dedicheremo noi una delle prossime puntate sull'approfondimento, magari chiamando anche chi nelle scuole interviene per educare i docenti. Va bene, vi ascolterò, grazie, ciao. E comunque una cosa soltanto volevo dire io rispetto a questo, che tutte le notizie che noi abbiamo vengono dai giornali. Io diffido moltissimo di quello che dicono i giornali, di quello che dicono quelle terribili trasmissioni pomeridiane e a volte pure serali o post serali che indulgono sempre su queste cose, ci sguazzano, eccetera. Le notizie che arrivano dai giornali, quando parlano di me, no di me, Antonella, ma di me come soggetto, per esempio, di Lotte, o che io c'ero, sapevo com'era andata, il giornale scrive tutta un'altra cosa, per cui diffido molto. Non abbiamo, il discorso che faceva Fabrizio è molto giusto, è un problema che va affrontato nel suo complesso. Dirò di più, che non è il primo adolescente che si toglie la vita, ci sono stati anche bambini, e poi a 15 anni sei poco più che un bambino, no? Comunque, e bambini che si sono tolti la vita, qui vabbè, il discorso sarebbe ampio, che cosa poi, qualcuno parlava di gioco, no? Non è un gioco, è un modo, diciamo, legato proprio a questa età tenera di un'impulsività che non ti fa magari nemmeno riflettere quell'attimo in più, però sicuramente un gesto del genere testimonia una disperazione profonda. Ci sono stati negli anni, ogni tanto escono fuori, ma ogni anno a giugno, quando escono i quadri della promozione o meno, succede una cosa simile, e quindi diciamo il discorso è un po' largo, non sappiamo nemmeno se ce la sentiamo, insomma, lo possiamo cominciare, ma è veramente molto molto ampio e riguarda tantissime cose. Vabbè, mandiamo un attimo un po' di musica, poi torniamo a Monti, di cui avete ascoltato quei 44 secondi di profonde verità, fra virgolette, parentesi e quello che vi pare, e mi sembrava giusto proprio rimarcare anche il discorso che faceva Francesca su questo fatto che di chi è conservatore e chi non lo è, qui si è rivoltato il mondo in questo paese, per cui alla fine chi vuole mantenere dei diritti elementari o delle condizioni di vita appena sufficienti è diventato conservatore, chi lo vuole riportare al 1800 o anche prima è diventato moderno. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Keep me from this road to some other town. Flow, river, flow. Past the shade tree, go river, go, go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. E allora siamo di nuovo in onda, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, la trasmissione in cui lavoratori e lavoratrici parlano di scuola, ma come è successo proprio poco fa, hanno grande piacere di parlare di scuola con chiunque, perché cioè anche con non solo con gli addetti ai lavori, perché appunto la scuola ci sembra che sia uno dei settori che riguarda veramente tutte e tutti. Stavamo parlando dell'intervento di Monti, non dicevamo che nemmeno ci sorprende poi tanto, ma conferma sicuramente qualcosa che avevamo detto in passato, di stare molto attenti a questo discorso delle 24 ore frontali di insegnamento. Questa cosa è apparentemente rientrata, molti hanno smobilitato, sono ripresi in molte scuole i POF, cioè il piano dell'offerta formativa, ricevimento dei genitori, eccetera, eccetera, perché evidentemente molti colleghi e colleghe si sono, diciamo, tranquillizzati su questo aspetto senza rendersi conto che qui il discorso non è per niente finito, ma è appena all'inizio, e citiamo così en passant il patto di produttività che è stato siglato sempre dai soliti sindacati pochi giorni fa, che è quello che poi introduce tutta una serie di misure che vanno completamente a sconvolgere il panorama lavorativo italiano, più di quanto non sia attualmente sconvolto. Quindi straordinario obbligatorio, aumento appunto della produttività, che se stentiamo a capire cosa possa significare nella scuola, oltre ai tagli di organico, capiamo molto bene, perché è stato messo in pratica già, cosa possa significare in altri settori lavorativi. Su questo però torneranno altre trasmissioni, ieri sera già ce n'è stata una che l'ha un po' analizzato il tappabuchi. Però appunto, siccome qui si è sollevata come una sorta di... Che hai fatto, Pa? Allora, no, dicevamo che però la cosa che mi ha colpito è che si sono tutti messi lì, insomma, molte persone a dire: ma come Fabio Fazio ci ha fatto questo? Perché per chi l'ha visto non ve lo raccomandiamo assolutamente, insomma, ha fatto il suo solito veramente servaggio, questo si può dire, nei confronti di Monti, che fra l'altro è andato a pubblicizzare un libro, cioè ci avesse bisogno, che sarà una palla sull'Europa, non so di che cosa, con una signora francese molto ben parlante italiano, fra l'altro, che evidentemente collaborava con lui ai tempi della Commissione Europea, non lo so, così la butto là. Ha scritto questo libro che probabilmente non si sarebbe comprato nessuno, non aveva certo bisogno di andare lì, è andato lì a fare questa cosa con quell'aria di sufficienza che dall'alto del suo 1,5 milioni l'anno, seppur decurtato dalle tasse, insomma, e gli viene naturale. E quindi tutti: ma come, da Fazio non me lo sarei aspettato, ma quello fa, insomma, non è che in passato ha fatto diversamente. Quindi insomma, il manifesto gli dedica sull'ultima pagina, vabbè, il manifesto c'ha ben altro da pensare in questo periodo, ma insomma, articolo e così via. Poi c'è una lettera firmata, perché i docenti, permettetemelo, cioè quanto a lettere sono veramente proprio prodighi e prodighe, cioè lettere, comunicati, firmati, è uno sfogo, ma insomma, diretta a Fazio, pubblicata sul manifesto, vabbè, insomma, comunque. Sul manifesto, la pagina a cura di Roberto Ciccarelli, che con la sigla firma anche una cosa divertente, cioè ci dice che sul web, perché ormai qui è tutto là sopra, sono comparse 10 domande, le 10 domande possibili, o l'intervista impossibile, come si diceva una volta, a Monti da parte di Fazio, del modello delle 10 domande super cattive, diciamo così, che furono fatte a Berlusconi e che fu tormentone di mesi e mesi sulle pagine di Repubblica dopo la questione del compleanno di Naomi, Noemi, non mi ricordo come si chiamava. Allora adesso, magari Fabrizio, partendo da qui, così per allegarci un po', ce le legge, cominciando dagli appellativi che faccio in questa ipotetica trasmissione, ma manco tanto diversa da quella di domenica scorsa, potrebbe fare. Si parte da un sobrio signor presidente, si passa professore, e al egregio dottore, per poi salire in un climax irresistibile, Monti viene chiamato nell'ordine Santità, Oscuro Signore di Mordor, Venerabile Jedi, Immenso Jabba di Hutt, Imponente Lord Darth Vader. La sequenza vuole segnala umoristicamente, qui il giornalista del Manifesto riporta la domanda più importante. Il mercato immobiliare, questo è il fazio che vorremmo, il mercato immobiliare sta crollando, il commercio è distrutto, state licenziando tutti quelli con contratto a termine, il paese è allo stremo e dunque una domanda sorge spontanea. Pure a lei la pizza la sera le si ripropone? Pure la domanda, la seconda domanda. Lei ha appena detto che gli insegnanti settari e corporativi si sono rifiutati di lavorare quelle che lei dice essere 2 ore in più, quando invece sono 6. Pensa sinceramente che la Juve vincerà il secondo scudetto consecutivo? E così via, nel senso che una risata lo seppellirà, o forse no, seppellirà noi se lasciamo che le domeniche sere questi giornalisti, come dire, pongano queste domande al nostro futuro presente e forse il nostro futuro. No, volevo anche dire che comunque rimarcare il fatto di non stupirsi, perché questo è comunque il modo abitudinario, cioè Fazio si mette, perché qualcuno magari potrebbe, anche non iscritto al PD, anche un po' più a sinistra del PD, potrebbe pure pensare: no, vabbè, ma è bravo, viene Saviano, invita la vedova di André. Questi sono più pericolosi di quegli altri, secondo me. Io certe volte, in momenti insomma, abbastanza così di pessimismo, dico: dalla destra mi guardi Dio, che da certa sinistra mi guardo io. Sinistra, poi insomma, ormai sta parola, certo. Allora, e poi un'ultima cosa su questa cosa delle 2 ore, su cui appunto viene rimproverata a Fazio di non avere corretto l'errore. Secondo me non è un errore, è una voce dal sen fuggita, perché probabilmente sarà il prossimo provvedimento che verrà fatto. Poi c'è stato un seguito che io non ho visto, per fortuna, in cui ieri sera Fazio ha fatto una sorta di errata corrige, però magari ce lo dice uno di voi, perché l'ha visto Fabrizio. Sì, forse dietro l'ondata di queste lettere che i docenti hanno scritto, Fazio si è sentito in dovere ieri in una trasmissione di lunedì sera di dire semplicemente che in effetti la frase, questi 44 secondi, sono stati veramente così, hanno suscitato molto scalpore. E poi, forse come replica, l'altro giornalista Gramellini ha inserito nei suoi commenti un elogio sperticato al lavoro dei docenti, gli eroi dei nostri tempi. Ecco, diciamo, questa è stata la chiusa, facendo incazzare ancora di più evidentemente chi già insomma ce l'ha abbastanza a torto, o magari ha ragione, con i poveri professori e i poveri maestri. Allora, adesso quindi concludiamo. Ricordiamo che la trasmissione la troverete fra un paio di giorni, insomma magari anche prima, sia sul blog oradibuco.blogs.org o comunque sul sito della radio www.ondarossa.info. Noi ci risentiamo come sempre martedì prossimo alle 16. Ma quando entrava in classe il direttore, tu ci facevi alzare tutti in piedi. E quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però hai rivestito la tua chiesa di tende d'oro e marmi colorati. Come può adesso un povero che entra sentirsi come fosse a casa?